B. Ascolta e controlla. 1. L'autore racconta che quando suo zio tornò a Terralba, lui aveva circa 8 anni. Durante il giorno, mentre vendemmiavano, avevano visto nel mare grigio le vele di una nave con la bandiera imperiale. Era la nave di suo zio, che era tornato a casa dalla guerra. La sera, in fondovalle, videro una fila di torce che si accendevano per la mulattiera. Il visconte passò sul ponte in una lettiga trasportata a braccia. 2. La ninfa nera si innamorò di un pastore di nome Velino, ma amare un mortale andava contro la legge degli dèi. Un'ancella di nome Nera rivelò tutto alla dea Giunone, che diventò furiosa e trasformò Nera in un fiume. Velino, disperato, si buttò da una roccia, ma la dea Feronia trasformò anche Velino in un fiume e i due amanti si unirono per sempre.